Dimitri! Ciao Federico. Scusa, ciao. Dimitri, ciao, ho fatto confusione con i nomi. Ti volevo proporre un quartetto di piante per suonare al tuo matrimonio. Guarda, potrebbe essere interessante perché no? Diciamo, tra le cose innovative potrebbe starci. Ok, allora chiudiamo questa puntata con un'ideona. L'ideona l'hanno avuta Dimitri Tosi e la futura moglie Lucia Murabito? Sì, Murabito, perfetto. Un'idea che avete scopiazzato, quindi possiamo dirlo, perché credo che qualcosa di simile sia stato già fatto. Il titolo del sito, il nome del loro sito è Nozze con Sponsor in Sicilia.it e racconta tutto, cioè voi volete sposare, non avete tanti soldi, avete deciso di farvi sponsorizzare, giusto? Esatto, sì, già abbiamo fissato la data delle nozze, che è il 30 aprile 2012, sì. L'idea era proprio realizzare questo sogno. Per realizzare questo sogno purtroppo ci vogliono tanti soldini, sentendo qua e là, cercando, vedendo, abbiamo scoperto che in tutta Europa da tanti anni si usa il farsi sponsorizzare le nozze. Abbiamo realizzato ad hoc appunto il sito internet che poco fa ricordavi, sì. Dove pubblicizziamo le aziende che in un modo o nell'altro ci aiutano a realizzare questo sogno. Ecco, ma questo in pratica cosa significa? Cioè tu avrai un logo di una macelleria sul tuo abito? No. Noi l'idea è funziona in questo modo sostanzialmente. Noi intanto andiamo a chiedere gli sponsor a quelle ditte che possono aiutarci concretamente, non dando dei soldi, bensì offrendo degli sconti, offrendo dei servizi per il matrimonio, proprio perché non c'è nostra intenzione di lucrare, quanto abbassare i costi. Okay. Quindi c'è attualmente abbiamo gli abiti da sposa sia per lei che per me, che ci hanno fatto uno sconto interessante, il fioraio che ci ha fatto anche un bello sconto, il Wellness Club che ci offre i regali per le damigelle, la sala per il rinfresco ci ha fatto anche un interessantissimo sconto, diciamo. Sì, okay. E voi in cambio cosa date? Noi diamo visibilità sul nostro sito. Solo quello? Il sito diciamo che sta viaggiando, nel senso che abbiamo, c'è da dire che io e Lucia abbiamo un'agenzia pubblicitaria qua a Trapani sostanzialmente, che si occupa di pubbliche relazioni, che si occupa di organizzazione siti e cose di questo genere. Quindi quando siamo visibili, diciamo, a livello regionale. Ho capito, quindi insomma c'è già un pubblico, diciamo, c'è già un target che può essere interessato alla vostra visibilità, quindi l'invitato non si troverà, che ne so, sul menu del pranzo appunto l'elenco di tutti i logo delle ditte. No, però potrebbe essere un'idea, ci hai pensato? Ma qualcun altro ce l'aveva detto, però rendendoci conto che questo sito in 10 giorni ha superato le 1300 visite, diciamo, dico, sarebbe un di più, che potrebbe essere, però diciamo non è negli accordi finora stipulati, quindi diciamo potrebbe essere l'effetto sorpresa dell'ultimo momento. Vi sposate adesso, scusa, domanda personale, in chiesa o in comune? No, in chiesa assolutamente. In chiesa assolutamente. E il sacerdote durante l'omelia non dovrà dire il nome di qualche marca? No. No. Ma qua ci potremmo organizzare. No, ma penso di no. Allora, a questo, cioè, dipende un attimino se riusciamo a fare la diretta del matrimonio in qualche televisione. Allora può essere che. Già, certo, lì si alza subito. Ascolta, cosa manca, Dimitri, per arrivare al matrimonio? Allora, c'è da dire che in 15 giorni che abbiamo cominciato questa avventura, diciamo, abbiamo trovato quasi tutto. Una cosa che non riusciamo ad ammortizzare i prezzi è il fotografo. Il fotografo è là. Quindi appello, fotografi d'Italia, fatevi avanti. Sì, insomma, poi, però a questo punto devi offrire qualcosa. Forse non basta la visibilità sul sito lì, cioè serve un'idea successiva. Perché il fotografo, quanto costa il fotografo per un matrimonio? È quantificato? Il fotografo del matrimonio, abbiamo richiesto vari preventivi, sì. Ci hanno chiesto fino a 2.000-2.500 euro. Okay. Noi siamo disponibili a uscire una quota parte, anche la metà, però 2005 sono tanti. Ok, quindi insomma per 1000-1500 euro è un banner. Noi ci mettiamo, noi sostanzialmente mettiamo la visibilità sul sito, sì. Il sito è linkabile, cioè lo spazio pubblicitario del fotografo o comunque tutti gli altri sono linkabili che porta al proprio sito. Alcune ditte addirittura fanno un ulteriore sconto per chi viene da quella fonte, cioè nel senso è un mezzo di marketing interessante. Mm-hmm. Certo, se poi il nostro fotografo ha bisogno di qualche altro incentivo, ne possiamo parlare. Perfetto. E un'ultima domanda, Dimitri. I genitori, che di solito sono abbastanza coinvolti nella preparazione di un matrimonio, come hanno preso tutto ciò? Allora, io devo essere onesto. È stata mia madre che... ah no, la cosa viene... noi lavoriamo nell'ambito della pubblicità, ormai l'hai capito. Sì. Siccome il matrimonio non sarà fatto a Trapani, noi avevamo accantonato questa idea. Mm-hmm. Poi mia madre una mattina scende senza sapere questa nostra intenzione né di farlo né di accantonarlo, dicendoci: guarda, ho sentito questa cosa, ho visto solo questa cosa su internet, una cosa di questa, dice, perché non ci date un'occhiata? Fantastico. Ed era nozze con sponsor in Francia. Esatto. E quindi l'avete fatta vostra. Okay. Arrivato a un certo punto abbiamo detto: compriamo un dominio, ma le che vado abbiamo buttato 100 euro. Esatto. Dimitri, e invece no, in bocca al lupo. Allora, nozze con sponsor in Sicilia.it è il sito. In bocca al lupo a te, la futura moglie Lucia. Beh, buon matrimonio con sponsor, noi lo sponsorizziamo così, insomma, almeno idealmente, avendo dato voce. Ciao ciao.